Ad alta voce. Elia Shilton legge Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. Eccomi seduto al capezzale di Kemmerich. È sempre più giù, poveretto. Intorno a noi c'è molta confusione. È arrivato un convoglio di feriti. Si stanno scegliendo i trasportabili. Il medico passa davanti al letto di Kemmerich, ma non si ferma neppure a guardarlo. Sarà per la prossima volta, Franz, gli dico. Egli si solleva un po' sui gomiti. Sai, mi hanno amputato. Dunque, ora lo sa. Io gli accenno di sì col capo e soggiungo: sii contento di essertela cavata così. Ma lui tace. Io continuo: potevano essere tutte e due le gambe, Franz. Wegeler ha perduto il braccio destro, è molto peggio. Così te ne vai a casa. Mi guarda in faccia. Credi? Ma naturale. E lui di nuovo. Credi? Ma certo, Franz, non hai bisogno che di rimetterti un poco dall'operazione. Mi fa cenno di avvicinarmi, mi chino sopra di lui e lo sento mormorare. Io non lo credo. Non dir sciocchezze, Franz, te ne convincerai tu stesso fra qualche giorno. Che cos'è poi una gamba amputata? Qui si aggiustano ben altri guai. Egli solleva una mano. Guarda un po' queste dita. Effetto dell'operazione. Devi mangiare. Vedrai che ti rimetti subito. Il vitto è buono, almeno. Mi indica una scodella ancora mezza piena. Io faccio finta d'arrabbiarmi. Franz, devi mangiare. Mangiare è la cosa principale. Il vitto è ottimo qui. Ma lui rifiuta e dopo una pausa dice lentamente: volevo diventare ispettore forestale una volta. Puoi esserlo ancora, lo consolo io. Si fanno oggi delle protesi straordinarie. Non ti accorgi neppure che ti manca qualche cosa. Attaccano l'arto artificiale ai muscoli direttamente. Nella protesi delle mani si possono persino muovere le dita, lavorare, magari scrivere. E poi ne inventeranno ancora. Egli rimane un pezzo in silenzio e poi dice: puoi portare a Müller i miei stivali. Accenno di sì e penso che cosa potrei dire ancora per rianimarlo un poco. Le sue labbra sono slavate, la bocca è diventata più grande, i denti sporgono in fuori come di gesso, la carne se ne va, la fronte sembra più ampia, gli zigomi si disegnano più forti, lo scheletro affiora a poco, gli occhi si infossano, fra un paio d'ore sarà finita. Non è il primo che vedo in questo stato, ma siamo cresciuti insieme e ciò conta pure qualcosa. Ho copiato i suoi compiti. A scuola portava quasi sempre un abito scuro a cintura logorato ai gomiti. Era il solo fra noi che sapesse fare il salto mortale alla sbarra fissa. Quando lo eseguiva, i capelli che aveva come di seta gli volavano sul viso. Cantorek perciò ne andava fiero. Ma non poteva sopportare la sigaretta. Aveva la pelle bianchissima e qualcosa di femmineo in tutta la persona. Mi guardo gli scarponi grandi e goffi in cui entrano con grosse pieghe i pantaloni. In quei tubi si ha l'aspetto forte e robusto, ma quando al bagno ci spogliamo, riveliamo ad un tratto la gracilità delle gambe e delle spalle. Allora non siamo più soldati, ma quasi ancora fanciulli. Nessuno ci crederebbe capace di portare lo zaino. È un curioso momento quando siamo nudi. Ritorniamo borghesi e per un istante ci par quasi di esserlo. Franz Kemmerich al bagno pareva piccolo e sottile come un fanciullo. Ora è lì disteso. Perché poi? Vorrei far sfilare tutto il mondo davanti a questo letto e dire: questi è Franz Kemmerich, 19 anni e mezzo. Non vuol morire. Non lasciatelo morire. Le idee mi si confondono. Quest'aria che puzza di creolina e di bruciato ingorga i polmoni. È un'aria pigra e densa che soffoca. Si fa buio. Il volto di Kemmerich si sbianca, spicca sui cuscini con tale pallore che pare risplenda. La bocca si muove adagio. Mi avvicino e lo sento mormorare. Se trovate il mio orologio, mandatelo a casa. Non contraddico più. Non c'è più scopo persuaderlo, ormai è impossibile. La mia impotenza mi affligge. Quella fronte dalle tempie incavate, quella bocca tutta denti, quel naso sottile e la povera grassona che piange a casa, a cui bisognerà pure scrivere. Almeno avessi già spedito la lettera. Infermieri vanno e vengono intorno con boccette e con secchie. Uno si avvicina, getta uno sguardo a Kemmerich e si allontana. Probabilmente aspetta, avrebbe bisogno di utilizzare quel letto. Io mi stringo al povero Franz e parlo come se con ciò lo potessi salvare. Forse andrai al convalescenziario sul Klosterberg, Franz. Sai, in mezzo ai villini. Dalla finestra allora puoi vedere tutta la campagna fino ai due alberi all'orizzonte. È la stagione più bella ora, quando il grano matura. Verso sera sotto il sole i campi sembrano di madreperla e il viale dei pioppi lungo il fiume dove andavamo a pescare, ricordi? Potrei di nuovo farti un acquario e allevare i pesci. Potrei uscire senza domandare permesso a nessuno e perfino suonare il pianoforte se vuoi. Mi chino sul suo volto, ora tutto in ombra. Respira ancora, piano. Ha la faccia bagnata. Piange. Bel lavoro che ho combinato con le mie stupide ciarle. Ma Franz, gli abbraccio le spalle e metto la mia testa accanto alla sua. Vuoi dormire ora? Non risponde. Le lacrime gli colano sulle guance. Vorrei asciugarle, ma il mio fazzoletto è troppo sporco. Passa un'ora. Sospeso sul suo volto, ne spio ogni espressione se per caso volesse dire ancora qualcosa. Ah, se aprisse quella bocca a gridare. Ma no, non fa che piangere con la testa piegata da un lato. Non parla della sua mamma, dei fratelli, non dice nulla. Ha lasciato già dietro di sé tutto ciò. Ormai è solo. Solo con la sua piccola vita di 19 anni e piange perché essa lo abbandona. Questo è il più disperato e più grave congedo a cui abbia assistito. Quantunque sia stato terribile anche per Titien, un colosso forte come un orso che urlava imboccando la madre e terrorizzato, gli occhi stravolti, con una baionetta teneva lontano il medico finché si accasciò all'improvviso. Ed ecco che Kemmerich comincia a rantolare. Salto in piedi, brancolo fuori dalla sala chiamando: dov'è il medico? Dov'è il medico? Quando vedo la tunica bianca lo afferro. Venga, presto, Franz Kemmerich muore. Lui si libera con uno strattone e domanda all'infermiere che gli sta accanto che cosa dice. Quello risponde: letto 26, amputazione del femore. Che diamine volete che ci faccia? Mi investe. Ho amputato 5 gambe oggi. Mi spinge da parte, dice all'infermiere: guardate un po' voi, e corre alla sala operatoria. Io fremo di rabbia mentre cammino accanto all'infermiere. Egli mi guarda in faccia e dice: una operazione dopo l'altra, da stamane alle 5. Roba da pazzi, ti dico. Oggi ancora 16 morti, il tuo è il 17°. Arriveremo certamente a 20. Mi sento venir meno, non ne posso più. Non ho più la forza di bestemmiare. A che scopo? Vorrei lasciarmi cadere a terra e non rialzarmi mai più. Eccoci a letto. Kemmerich è morto. Ha la faccia ancora umida di pianto. Gli occhi sono semiaperti, gialli come vecchi bottoni di corno. L'infermiere mi dà una gomitata. Vuoi prendere la sua roba? Faccio cenno di sì. Lui prosegue. Bisogna portarlo via subito. Il letto ci occorre d'urgenza. Guarda fuori, sono distesi per terra. Prendo la roba. Distacco a Kemmerich la piastrina di riconoscimento. L'infermiere domanda il libretto personale. Non si trova. Deve essere rimasto in fureria, dico io. E me ne vado. Dietro di me stanno già tirando Kemmerich su un telo da tenda. Fuori l'oscurità e il vento sono come una liberazione. Respiro a pieni polmoni. L'aria mi alita in volto, calda e dolce come non mai. Immagini di ragazze e di praterie in fiore, di nuvole bianche mi attraversano il cervello. I miei piedi si muovono sempre più presto di corsa. Passano dei soldati, i loro discorsi mi eccitano senza che io capisca. La terra è percorsa da fluidi che per le piante dei piedi si trasfondono in me. La notte è carica d'elettricità. Il brontolio del fronte sembra una lontana musica di tamburi. E le mie membra si muovono snodate, sento i tendini agili nel moto, respiro, soffio, mi scuoto, la notte vive, io vivo. Ho appetito, una fame grande che non viene dallo stomaco. Müller mi aspetta davanti alle baracche, gli consegno gli stivali, entriamo, li prova, li calzano come un guanto. E gli fruga nelle sue provviste e mi offre un bel pezzo di salsiccia e poi tè bollente e rum. Arrivano i complementi, i vuoti vengono colmati e i pagliericci nelle baracche si fa presto a collocarli. In parte si tratta di anziani, ma dai battaglioni di marcia ci vengono assegnati anche 25 uomini dell'ultima leva. Sono minori di noi, quasi di un anno. Krop mi tocca il gomito. Hai visto i bambini? Faccio cenno di sì. Pettoruti ci diamo delle arie, affondiamo le mani nelle tasche dei calzoni, passiamo in rivista le reclute e ci sentiamo mostri di anzianità. Kaczynski si unisce a noi. Facciamo il giro delle scuderie e giungiamo in mezzo ai complementi mentre stanno ricevendo in consegna le maschere antigas e il caffè. Kat domanda a uno dei più giovani: «È un pezzo che non avete messo sotto i denti qualche cosa di buono, no?» Quello storce il muso. «La mattina pane di rape, rape con verdure a mezzogiorno e costolette di rape insalata alla sera». Kaczynski zufola con aria competente. Pane di rape. Siete fortunati, lo fanno già coi truccioli. Ma che diresti d'un piatto di bei fagioli bianchi? Ne vuoi? Il ragazzo arrossisce. Perché prendermi in giro? Kaczynski dice soltanto: prendi la tua gavetta. Lo seguiamo curiosi. Ci accompagna ad un barile accanto al suo pagliericcio. In realtà è mezzo pieno di fagioli bianchi con carne di manzo. Kaczynski sta lì come un generale e dice: apri gli occhi, allunga le mani, è la parola d'ordine dei prussiani. Siamo stupefatti. Io domando: per Diana, Kat, come hai fatto? Il cuciniere è stato felice di sbarazzarsene. Gli ho dato in cambio 3 pezzi di seta da paracadute. I fagioli bianchi sono ottimi, anche mangiati freddi. Ne dà generosamente una porzione al ragazzo e soggiunge: «La prossima volta che vieni qui con la tua gavetta, nella mano sinistra devi tenere un sigaro o una cicca, capito?» «Per voi», rivolto a noi altri, «per voi ben inteso, è sempre gratis». Kaczynski è insostituibile, perché ha un sesto senso. Dappertutto ci sono di questi tipi, ma nessuno distingue a prima vista la loro specialità. Ogni compagnia ne ha uno o due. Kaczynski è il più fantastico che io conosca. Di mestiere sarebbe, credo, calzolaio, ma questo non vuol dire. I mestieri lui li sa tutti. È bene essergli amici. Kropp e io lo siamo, e anche Haevestus appartiene un po' alla combriccola. Veramente quest'ultimo è più che altro un organo esecutivo, perché lavora sotto gli ordini di Kat quando Kat ne combina una che richieda pugni sodi. In compenso ha poi anche lui i suoi piccoli guadagni. Per esempio, si arriva di notte in una località perfettamente sconosciuta, un brutto buco dove si vede subito che all'infuori dei muri non c'è rimasto nulla. Ci accantonano in una piccola officina buia da poco adattata per alloggio di truppe. Non vi sono che letti, o meglio, lettiere fatte con 4 assi e un po' di rete metallica. La rete metallica è dura, non abbiamo coperte da stendervi sopra perché la nostra ci serve per coprirci. Il telo da tenda è troppo sottile. Kat vede tutto ciò e dice a Haevestus: «Vieni con me». Se ne vanno fuori, nel paesucolo sconosciuto, e mezz'ora più tardi sono di ritorno con un carico di paglia. Kat ha scovato una stalla e quindi paglia. Ormai si potrebbe dormire se non avessimo lo stomaco così vuoto. Kat domanda a un artigliere che dà un pezzo da queste parti: «Ci sarebbe una cantina qui intorno?» Quello ride: «Sì, proprio, qui non c'è niente. Manco una crosta di pane puoi trovare». «Non ci sono abitanti, allora?» Quello sputa: «Sì, pochi, ma fanno la ronda intorno alle cucine da campo e mendicano essi stessi». La va male. Non c'è che da stringerci la cintola e aspettare l'indomani finché venga il rancio. Ma vedo Kat che si mette il berretto e gli domando: «Dove vai, Kat?» «A studiare un po' la situazione». E quatto quatto se ne va fuori. L'artigliere sogghigna: «Studia pure e attento a non farti male». Delusi ci stendiamo e riflettiamo se non sia il caso di intaccare le scatolette di riserva, ma è troppo rischioso. Allora cerchiamo di prender sonno. Kropp rompe una sigaretta e me ne dà la metà. Tiaden parla del suo piatto nazionale, le grosse fave col lardo. Condanna il sistema di cuocerle senza crauti. Soprattutto bisogna cuocere tutto insieme, per amor di Dio, non separatamente patate, fave e lardo. Qualcuno bestemmia che farà fare a Tiaden la fine delle sue fave se non fa silenzio. Si fa allora silenzio nel camerone. Solo un paio di candele piantate nel collo di 2 bottiglie spargono la loro luce tremolante e di tanto in tanto si sente l'artigliere che sputa. Cominciamo ad appisolarci quando ecco la porta si spalanca e appare Kat. Mi par di sognare. Ha sotto il braccio 2 pagnotte e in mano un sacchetto da terra insanguinato con carne di cavallo. L'artigliere lascia cadere la pipa, palpa il pane. Per Dio, vero pane e caldo ancora. Kat non fa discorsi, il pane c'è e basta. Sono sicuro che se lo portassero in un deserto saprebbe imbandire in 1 ora la sua cena di datteri, arrosto e vino. Ordina secco a Haie: «Tu spacca la legna». Poi estrae dalla giubba una padella e dalla tasca una manciata di sale e perfino una fetta di lardo. Ha pensato a tutto. Haie accende sul terreno una bella fiammata che scoppietta nell'officina nuda. Non ci tiriamo fuori dai giacigli. L'artigliere esita. Per un momento riflette se non gli convenga di congratularsi, sperando che qualcosa tocchi anche a lui. Ma Kaczynski non lo guarda nemmeno, come se non esistesse. e allora se ne va sacramentando. Kat conosce l'arte di arrostire la carne di cavallo così da renderla tenera. Non bisogna metterla in padella subito, perché altrimenti diventa dura. Bisogna prima cuocerla in un po' d'acqua. Ci accoccoliamo in cerchio coi nostri coltelli e riempiamo la pancia. Così è Kat. Se in un dato anno e in una data regione vi fosse per un'ora sola la possibilità di scovare qualche sostanza mangiabile, state pur certi che proprio in quell'ora egli metterebbe il suo berretto e, quasi spinto da una visione interiore, uscirebbe dritto, come guidato dall'ago di una bussola, e la troverebbe. Egli trova tutto, quando fa freddo le stufette e la legna, fieno, paglia, tavoli, sedie, ma soprattutto roba da mangiare. È un enigma. Si direbbe che la estrae dall'aria in virtù di chissà quale magia. Il suo record furono 4 scatole di aragosta. Per la verità, noi si sarebbe preferito dello strutto. Elia Shilton ha letto Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.